con Giulia Esposito di Lab 80 per parlare di una doppia uscita per il 22 marzo, Fixeur e Illegittimo, entrambi di Adrian Sitaru. Giulia, ben ritrovata. Grazie mille. Ce li presenti? Certo, Illegittimo e Fixeur sono gli ultimi lavori di Adrian Sitaru, un regista che si è fatto molto conoscere negli ultimi anni ai maggiori festival internazionali, per esempio a Locarno, a Berlino. Questo film Illegittimo è vincitore, è stato presentato a Berlino dove ha vinto il premio CKI. Quest'anno il Bergamo Film Meeting ha dedicato all'autore una retrospettiva con la sua filmografia completa nella categoria Europe Now del Festival. E subito, appunto, in collaborazione con Bergamo Film Meeting, noi di Lab 80 Film porteremo entrambi i film nelle sale dal 22 marzo. Senti, mi dici il tuo giudizio personale su entrambi, quali sono gli elementi che più ti hanno convinto? Allora, intanto devo premettere che Adrian Sitaru è un autore che stimo moltissimo anche per i suoi precedenti lavori. Ok. E, sono entrambi film che raccontano due storie anche molto diverse e anche dal punto di vista diciamo tecnico E e stilistico. appunto cinematografico sono diversi, ma entrambi trattano delle questioni di tipo morale, in un modo molto aperto appunto alla riflessione. Quindi entrambi riflettono sui temi soprattutto della libertà e di come, insomma, della libertà di scelta, sul proprio corpo, sulle proprie azioni, ma anche del tentativo di non abusare invece delle situazioni delle altre persone. Quindi insomma, nella fattispecie il film Illegittimo è la storia di una famiglia in cui i quattro figli di questa sorta di padre e famiglia anche molto, molto autoritario che tiene la conversazione si ritrovano a scontrarsi con questo padre perché vengono a sapere che il regime di Ceausescu denunciava le donne che volevano abortire, quindi obbediva alla legge in modo alla lettera, insomma, denunciando queste situazioni. Questo crea un dibattito in famiglia in cui i figli accusano il padre per questo suo aver fatto del male a queste donne, aver limitato la scelta di. E da lì si instaura una crisi familiare in cui però tutti questi valori che vengono messi in discussione vengono poi rielaborati e rivissuti direttamente in questa sorta di conflitto anche generazionale per poi arrivare a una sorta di sintesi finale in cui ogni cosa è stata rimessa in discussione. In cui in qualche modo i valori vengono di nuovo, ogni persona si riappropria un po' di questi valori e appunto naturalmente questo è sicuramente un modo anche di parlare di aspetti della società, ma non direi che è tanto un film che vuole in qualche modo denunciare. Quanto un film che vuole riflettere su questo tema, appunto, della libertà. Fixer è una storia completamente diversa. Parla di un giovane fixer che sarebbe una sorta di mediatore che lavora per una TV francese e dà la possibilità di fare appunto un passo nella sua carriera. Testa su una storia di prostituzione minorile. Il dilemma etico subentra nel momento in cui questo protagonista si rende conto che in qualche modo anche questa inchiesta, anche questo tentativo di far parlare la ragazzina sia una sorta di sfruttamento della sua vicenda, del suo dramma, e quindi appunto si rende conto di questa contraddizione, di questo parallelo un po' tra chi l'ha sfruttata e lui stesso, o Sì. Un comunque i giornalisti stessi certo nel giornalismo voler usare la sua scandalistico, insomma. storia. Esatto, Sì. e la cosa anche oltretutto interessante è che per entrambi i film Adrian Citaro si basa su degli eventi reali, quindi per esempio la storia di Fixer ha come retroscena una vicenda realmente accaduta al suo direttore della fotografia, e quindi appunto questo dubbio su come trattare un tema delicato come quello insomma, della prostituzione minorile, che comunque è anche un fenomeno che tocca da vicino la Romania, perché molto spesso capita che insomma, c'è questo mercato di ragazzine, lo tocca però con l'intento di riflettere sul ruolo che può avere chi informa o chi, come nel suo caso, perché lui non è un giornalista ma un regista, chi fa un film su questa tematica, come si può porre, come può gestire questa responsabilità. E lui, secondo me, nel film Fixer lo fa in un modo incredibilmente giusto, equilibrato, senza mai cadere nella morbosità. Questo vale per entrambi i film, quindi riesce a trattare delle tematiche anche legate alla sessualità, in questo caso legate anche appunto alla violenza, allo sfruttamento, in un modo assolutamente non morboso, senza cercare in qualche modo l'effetto, ma appunto con molto equilibrio e una consapevolezza, ecco. Senti Giulia, come sarà questa doppia uscita? Usciranno accoppiati o separati? Abbiamo pensato di farli uscire insieme, i film quindi saranno disponibili entrambi dal 22 marzo. È una distribuzione questa in collaborazione con Bergamo Film Meeting e che va che abbiamo voluto lanciare subito dopo le anteprime al festival, e che abbiamo potuto anche avere con la presenza del regista, che è stata molto preziosa. Ok, ci. E per le uscite vi invito come sempre a visitare il nostro sito e la nostra pagina sui social per essere informati appunto delle proiezioni nelle varie città. Benissimo, allora ricordiamo questa doppia uscita per Fixer e Il Legittimo di Adrian Citaru il 22 marzo per Lab80. Giulia Esposito, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille a te. Ciao.